Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Seconda parte di Eclettica con Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20, ma non questa settimana, visto il 25 di venerdì festivo, me lo prendo. E quindi niente Eclettica, rimediate, nel caso, come già ho detto, avete crisi di astinenza, rimediate con il podcasting. Sunset, con le tre parentesi graffe aperte e chiuse, ha trovato spazio in chiusura della prima parte, invece Tokyo Police Club, che ci siamo appena ascoltati con Juno, ad aprire la seconda parte. Seconda parte in cui voglio cedere anche virtualmente il microfono a Gianni. Gianni che scrive da Napoli e si riallaccia a qualcosa che ho detto una settimana fa. Ciao Giulio. In una puntata che hai mandato in onda, dicevi di non avere ancora valutato il da farsi sulla lista nera. Ti do il mio piccolo consiglio. Chiedi a chi ne fa parte se vogliono restare, per sapere direttamente, forse prima di altri, in che spazio andrà a collocarsi Eclettica in un prossimo futuro. Personalmente spero che sarà ancora possibile, anche su un'altra frequenza, ascoltarti in podcast, visto che da Napoli non è possibile seguirvi se non via web. Ti saluto, Gianni. E per quanto riguarda quello che Gianni dice, la lista nera, tenerla aperta, sì, no? Non lo so, era il dubbio che avevo manifestato in onda una settimana fa. Il suo consiglio direi che è quello buono, infatti qua è già la prima volta che lo chiedo in onda, poi lo chiederò direttamente sulla lista nera, quando alla fine di questa settimana manderò la playlist con elenco di brani, letture e film che stanno caratterizzando la trasmissione e la caratterizzeranno anche nei prossimi giorni. Grazie Gianni per l'ottimo consiglio. Ed ora vi lascio con Richard Swift. Vi ricordate, in Eclettica abbiamo trasmesso tutti i suoi album mano a mano che sono usciti, a partire da Novelist, che forse è stato quello che ho trasmesso di più. Ora se ne esce per Secretly Canadian con una nuova prova dal titolo Richard Swift as Onassis. Una prova in cui ci sono brani anche semplicemente strumentali, ci sono chitarre sporche, ci sono ritmi sbilenchi, un disco sgangherato, insomma, dal quale vado ad estrarre un blues, Knee High Boogie Blues. Bye. Mi girai intorno con lo sguardo. Su di me gli occhi della ragazza grassa dietro bancone. Si assicuravano che non bagnassi la merce sugli scaffali e un po' sorridevano di cortesia o di scherno. Dovevo essere uno spettacolo ridicolo. Stavo bene attento a non sfiorare nulla, memore della figura minacciosa e sporca di quel punk tatuato della mia adolescenza. Un silenzio imbarazzante. «Charlie!» dice la ragazza brutta ma simpatica. «Ci sono da sistemare i nuovi arrivi!» «È lui!» pensai. «Meglio non fare troppi danni!» Invece, da un angolo del negozio, salendo piccole scale nascoste di un piccolo magazzino, c'è lei, con i capelli legati ed un grosso catalogo sotto il braccio, una matita poggiata sull'orecchio destro. Avevo deciso di non innamorarmi, ma lo feci. Dannatamente successe. Pensai che, finché non lo avessi detto ad alta voce, non sarebbe stato vero. Lei mi guardò un attimo divertita, poi corse ai piedi della cassa dei nuovi vinili. Così successe che i 5 pound del giorno seguente decisi di spenderli nel vecchio CD dei T-Rex, quello del 71, dal sapore innocente di atmosfere ingenue. Ci misi un attimo a prenderlo e pagarlo. Ero andato apposta per mettermi alla prova, per convincermi che non era successo affatto. La vidi solo di spalle, indaffarata nella zona Roots from the World. Sperai che non si girasse, e non lo fece. Tornai anche il giorno dopo, questa volta con più soldi in tasca e più tempo in contemplazione dei dischi, come un vero intenditore. Leggevo i titoli, più che altro. Per ciascuno identificavo un poeta, un riferimento letterario, un parallelismo tra quegli scaffali e quelli della signora Grace. Questo era ancora «Dove sei, Charlie?» Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. slowly close my eyes, learn to sleep tonight, and alone will I share. See if you can guess what I am now. I'm a zit. Get it? All right, you bastard. Let's go right here. Storm of secrets. This Farm Will End Up in Fire è il brano che si è appena chiuso da parte dei Belgi Girls in Hawaii, mentre prima erano stati gli svizzeri Colorblind con Anti-Love Song, ed ora Nebraska, per la precisione Omaha. Un quintetto, tre donne e due uomini, di nome Tilly and the Wall, che uscirà il 17 di giugno con un album che non avrà titolo, meglio, potrebbe essere anche omonimo, ma sembra, da almeno quello che si legge in internet, che possa essere anche intitolato O, la lettera O, o il numero 0, no, mi sembra più una O che uno 0, che graficamente sarà presente sulla copertina del disco stesso. Da quell'album io vado ad estrarre Cacophony. Una media di 3 vinili al giorno, barattati con quei soldi con cui mia madre mi mandava a ritirare i vestiti alla lavanderia. Succedeva che perdevo tutto il tempo a cercare Charlie e sperare che non si vedesse in giro, a guardarla senza essere visto e desiderare di non sentire il bisogno di guardarla. Il tempo di questi moti di coscienza tardo-adolescenziali e la lavanderia chiudeva i battenti prima che mi decidessi ad uscire. Dalla vetrina le giacche di mio padre e le camicie erano la parte più cospicua di quella comitiva di impiccati che pendevano dalle stampelle. Ogni sera finivo disteso sul letto, come un vecchio panno per lavare le macchine. Il triste panno sporco gettato nell'angolo del garage. Quello ero io. Mettevo le cuffie alle orecchie e inserivo uno dopo l'altro i vinili acquistati durante il giorno. Questo era ancora «Dove sei, Charlie?» Una storia di poesia e rock and roll. The Holly Orange. This is my last song about myself, about my friends, found something else to sing. Try and patch it up with tape and twine, babe, I just break everything that's mine. They wheeled out my casket, they said, boil it down your head. I said, oh shit, man, I ain't even dead.